Buonasera a tutti, benvenuti in frequenza. Questa è Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live, l'appuntamento del martedì, di martedì 22 ottobre del 2013. Una buona serata vi arriva da Flavio Bilato, da chi conduce insieme a me la trasmissione, ovvero Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, ancora un live, ancora un appuntamento importante per presentare un nuovo progetto di una nuova band, però con dei volti già conosciuti. Quindi diamo subito il benvenuto agli Holidays Futurism. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora salutiamo Claudio Valente, graditissimo ritorno. Ciao. Simone Chivilò, graditissimo ritorno pure del signor Chivilò. Eccolo. Ciao a tutti. Qua. Ciao. Grazie Simone. Del signore. E poi... Bene. Poi non te la darò più per tutta la puntata, Simone. Bene, poi salutiamo anche Virginio Bellingardo, che è venuto a trovarci per la prima volta e che fa parte appunto di questo progetto chiamato Holidays Futurism. Buonasera Virginio. Buonasera a tutti. Ecco qua, sappiamo che Virginio si tiene abbondantemente lontano dai microfoni, non solamente perché è il batterista, quindi potrebbe creare confusione ai microfoni stessi, ma perché ha detto no, faccio parlare gli altri. Io non sapevo neanche di venire qua stasera, mi ha detto. No, sto scherzando, ovviamente. Ma quasi sì. Ti avevano dato un congruo preavviso, vero? Mica tanto, benissimo. Dicono, mica tanto. Allora, Holidays Futurism, innanzitutto chiediamo a Claudio, sì. Non te l'avrà ancora chiesto nessuno perché è un progetto nuovissimo, per cui sappiamo di essere quasi in anteprima nella presentazione. Come radio sì, siete la prima che ci Oh, interessa. Benissimo, questo ci fa un grande onore, poi ricorderemo anche le prossime date per l'evento quello completo. Quindi appunto in radio un'anteprima di quello che è il nuovo lavoro. Ma prima svegliamo un attimino agli ascoltatori il perché del nome del gruppo così inconsueto. Inconsueto. Sì. Allora, a dirla tutta, il nome viene da una canzone degli anni Ottanta di una compilation che si chiamava Samples Only, che venne incisa e poi realizzata da la prima etichetta indipendente veneziana, ma anche forse d'Italia, che era l'Art Retro Ideas. C'era della musica New Wave. E questo nome, diciamo, ha colpito un po' la fantasia e ci ha, come dire, suggestionati per poi proseguire a scrivere delle canzoni che unissero la suggestione della vacanza, la vacanza come viaggio, quindi, non solo fisico, ma anche interiore e mentale, e futurismo, perché futurismo comunque... E luce, movimento, velocità, quindi è una cosa molto rock secondo noi. Molto rock, assolutamente. Era una rock. Corrente molto corrente il futurismo, per cui piena di invenzioni, di nuovi modi di pensare, nuovi modi di vedere le cose e anche di sentirle in un certo senso. Certo, infatti, quindi ha questa attitudine anche sperimentale. Benissimo, allora prima di continuare a parlare con Holiday Futurism vogliamo capire un attimino di che musica stiamo parlando, e non sarà solo questo il tema, però diamo il via a quella che è l'argomentazione con Venice to Venice, poi c'è anche un sottotitolo molto particolare che è Foggy Days Sunny Nights. Ecco qua, questa è una Sunny Nights per Holiday Futurism. È una notte di sole questa. Benissimo. E quindi allora cominciamo con il primo pezzo, quindi tenetevi forte perché si comincia con veramente con qualcosa di speciale. Eccolo qua. Down and cries. Oh, no one knows the reason. just a reason why. No one knows whatever. No one cares no more. The lady I'm dating, she smiles like a snake. She's got a brand new lover. A desert dinner. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Eccoci qua ancora, siamo tornati in diretta Blu Time Live, continua a 21 e 12 minuti primi. Abbiamo ascoltato il primo pezzo degli Holidays Futurism, questa Radio Silence, tratto da questo lavoro che stiamo ascoltando in anteprima degli Holiday Futurism, che si intitola Venice to Venice, Foggy Days, Sunny Nights. Sì. E allora Radio Silence c'entra pochissimo con questa atmosfera, la parola silence, Claudio. Sì, in realtà c'è una provocazione, perché appunto si chiama Silenzio Radio la canzone, perché in qualche maniera è polemica nei confronti di un certo mondo delle radio. Mm. Non il vostro, no, ecco. Grazie. Che non dà voce a alcune realtà musicali, e quindi spesso c'è tutto un mondo di radio che, diciamo, secondo noi ha un silenzio assordante, cioè fa molto rumore per nulla, per dirla con Shakespeare. Oh, Shakespeare. So much ado for nothing, eccolo qua, ricordiamo. Esatto. Sì, sì. E Flavio mi ha detto, Claudio, mentre il pezzo andava, una cosa molto interessante, che Simone e Claudio hanno composto assieme anche a Virginio qui presente il pezzo di Getto. Hanno fatto un pezzo di Getto, cioè immediatamente è uscito così, no, il durissimo, disco proprio, tutto il disco, tutto il disco, disco. Questo è ancora meglio, un pezzo durissimo, un pezzo che entra, che poi con le chitarre abrasive finali, proprio entra dentro, il che vuol dire, Maurizio, che tra una settimana presenteranno un nuovo album. Certo. Sì, esattamente, esattamente. Lo facciamo per voi, sennò qua materiale scarseggia, no? Bravo, ma come mai questa, subito questa atmosfera centrata, Claudio? Diciamo che, immediatamente, che come sempre c'erano delle tracce guida, dei demo, però poi quando ci siamo trovati a realizzarle non ci siamo stati tanto a pensare, cioè è venuto fuori molto spontaneamente tutto quanto, e il risultato ci è piaciuto subito. Certo. Tra l'altro, beh, forse lo può dire anche Simone, era un periodo in cui lui era quasi sempre in Spagna, io ero a Venezia, infatti questo disco parla anche di vacanze e di viaggi. Sì, sì, sì, sì, sì. E quindi dovevamo cogliere l'attimo. Avete, ecco, colto l'attimo musicalmente parlando, perché questo è proprio un singolo che è esplosivo, che muove. Sì, è un singolo che muove, e anche un videoclip che si può vedere anche, certo, all'interno del sito internet di Holiday Futurism, Claudio. Sì, sì, sì, assolutamente, che, anzi, visitatelo, che è un bellissimo sito che ha fatto, sì, il nostro carissimo amico Simone Zanella, che ringraziamo per... È molto avveniristico, molto futurista, ecco, perché in lui è uno, sì, un po' è avanti, è avanti, certo, ci serviva nella squadra, sì, da questo, sì, punto, sì, di, sì, vista, sì, ecco. Sì. Allora, per parlare un attimino di questo videoclip così, così particolare, si vede la band che suona innanzitutto, sì, nella vostra formazione, e poi ci sono dei, come dire, degli sdoppiamenti di immagine, da una parte la band che suona, dall'altra parte scene di vita un po' in contrasto con la realtà, in contrasto con se stessi, si può dire, o con se stesse, visto che, sì, il, diciamo, le artiste principali sono donne, sono donne. In questo video. Ma sì, beh, rispondo io. Sì, Simone. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Vai, Simone. Ma in realtà non è che sia tanto in contrasto con la realtà, purtroppo la realtà è questa. Ah, Per cui abbiamo, insieme alla regista, abbiamo pensato di... Valeria Crucelli, che salutiamo. Valeria Crucelli, sì, di Bologna. Sì. Anzi, lei è pugliese. Proprio. No, calabrese. Calabrese, magari non ci sente, perché cioè a Siviglia, da quanto so. È a Siviglia, sì. Però c'è sempre lo streaming radio. Ah, beh, lo streaming radio. Allora, vabbè, scusa, ciao Valeria. Ciao Valeria. Ecco, per cui, niente, no, abbiamo pensato di fare una fotografia molto realistica di quello che è il momento, no? Quindi Radio Silence già parla di un silenzio assordante, ma non è solo un silenzio, è anche una, proprio una carenza di coscienza, di comunicare, di incapacità. Ormai si comunica soltanto con immagini che arrivano fondamentalmente dalla televisione, dalle radio commerciali, da tutto questo, sì, infatti, mondo stereotipato, per cui abbiamo messo quel ragazzino che vuole comunque fare il gesto estremo di spararsi davanti allo specchio, ma lo fa con una pistola d'acqua, certo, perché, bellissimo, non ha neanche il coraggio, sì, poi di affrontare, per fortuna, cosa, questo, per fortuna sua, per fortuna sua e nostra, perché sennò no, per fortuna altrimenti ci sono molti simboli, sì, dentro, sì, sì, c'è, sì, la ragazza con la bocca incerottata sulla quale viene lanciato del denaro, che ovviamente è un chiaro riferimento a come viene a volte utilizzato il corpo della donna. Ci sono dei riferimenti anche all'appiattimento culturale generale. Infatti c'è una frase del disco che dice realities, vulgarities, mediocrity, e c'è un po' di ironia su questa cosa, insomma, per chi per chi vuole capirla. Sì, certo, per chi vuole capirla. Anzi, diciamo che questo è un album scritto totalmente in inglese, così per ritornare, diciamo, a quelle che sono le origini, i gusti musicali originali, sì, della band, e quindi un ritorno agli anni 70, ma anche agli anni 80. Senz'altro. Sì. Devo dire che, rimettendomi a scrivere più rock, ho sentito l'esigenza di utilizzare la lingua del rock, che è l'inglese. C'è poco da fare per quanto mi riguarda. Non vuole essere polemico questo nei confronti, sì, sì, sì, sì. No, diciamo dell'Elite FIBA. Sì, sì, sì. No, facciamo, del rock italiano. Facciamo un breve cappello anche agli ascoltatori per presentare, sì, anche Claudio Valente nelle sue precedenti esperienze assolutamente cantautorali, sì, cantate in italiano, sì, quindi ricordiamo un pop più adulto, oppure anche Maschere Nude, che sono due lavori assolutamente da andare ad ascoltare, per capire, grazie, anche l'evoluzione, sì, certo, sì, per capire anche l'evoluzione che c'è stata dentro, e quindi questo ritorno che corrisponde un po' a Art Deco. Beh, musicalmente forse no, ma poeticamente, dal punto di vista emozionale, senz'altro si riprende da lì. Dal punto di vista, cioè, c'è un riferimento agli, certo, anni 80 che ho naturalmente frequentato con molta passione, quindi sì, non, sì, c'è dubbio. Però credo che grazie all'aiuto di Simone abbiamo fatto un disco rock, ma si figuri, è stato un piacere. Abbiamo fatto un disco rock moderno, cioè dove, sì, tutte queste suggestioni musicali vengono un po' frullate in una miscela moderna. Poi sì, lui è più rockettaro, sì, di me. Ma Simone t'ha frullato musicalmente, perché sta un po' allontanato dagli anni 80. C'erano, cioè, siamo presenti, esatto, anni 80. Perché ti ha leggermente allontanato, ci ha messo questa chitarra. Avevo 8 anni, alla fine. Perché lui è più giovane. Ma stavo per dire questo, bravo. Aveva questa chitarra distorsiva alla fine, quindi non sono proprio gli anni 80 la chitarra, no, distorsiva. Assolutamente. Benissimo, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo piacevolmente conversando con Heavy Days Futurism per la presentazione di questo nuovo lavoro Venice to Venice, visto che Simone ha portato la chitarra e Virginio le birre. Sì, ha portato il cajon, ecco qua. Allora ci ascoltiamo un pezzo in acustico. Cosa ci proponi, Claudio? Guarda, proprio perché parlavamo di chitarre distorte, come dice Maurizio, noi adesso riproponiamo un pezzo che nel disco è molto molto rock in versione acustica, quindi gli diamo un'altra veste. Benissimo. Si chiama Falling Down, eccolo, vuol dire qua. Cadere. Bene. Sinking in a quicksand now, and I'm just looking for a friend or two who can take me out to get around, getting over you. I'll keep on moving wild, I'm gonna stay alive. You can kill me with a simple smile. Well, I'm just waiting for another chance, cause I go crazy when I look at you. Well, I'm just waiting for a sweet romance. I'm feeling desperate, I miss your blues. I'll keep on moving while I'm gonna twist and shout. Now I'm lost you when you're falling down. You can't feel alone when you lose. My super baby with her mortal smile, I know I'll hold her till the end of time. Hey baby, won't you decorate my life? I'll keep on moving wild, I'm gonna stay alive. You can kill me with a simple smile. You can feel alone when you lose control. You can scream. down, you're falling down. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Ascoltate questo Falling Down con gli Holidays Futurism. Ancora un benvenuto lo diamo a Claudio Valente, Virginio Bellingardo e Simone Chivilò, che sono venuti a trovarci questa sera proprio per questa anteprima di presentazione del disco Venice to Venice. Mi piace dire Foggy Days, Days and Sunny Nights. Night. Bellissimo, ci sta proprio bene. Sì. Allora, questo cadere, si rischia di stare soli in questo mondo sempre più virtuale. Una volta che ti tiri indietro, proprio vai fuori dalla mischia, nessuno più ti considera. E allora è tempo di ricominciare. Ma come si ricomincia, Claudio? Allora, quindi non parliamo di cadere, parliamo di risalire. Di risalire, certo. Sì, parliamo subito della soluzione. Beh, socializzando di fuori dai social network, che in realtà sono anti-social network spesso, perché non ti consentono di avere un vero rapporto con le persone, quindi... Per esempio, questo può essere un modo, staccare la spina e andare fuori e magari a bere uno spritz con gli amici o anche a bere un'acqua minerale, non è necessario. E quello è sempre salutare. Diciamo che Facebook e internet aiutano a farsi conoscere, a rendersi, diciamo, famosi nel mondo, però non serve, non basta solo internet, ci vuole proprio il, diciamo, il contatto umano in questo caso. Ma sai, caso. È il problema, no, di cui parlavamo prima, che... società, siamo in una società dove se sei un perdente o comunque se sei una persona problematica, hai delle cose da risolvere, eccetera, tendenzialmente la maggior parte delle persone ti evita. Perché se tu in internet, a parte queste conversazioni sterili di politica, di sociali, eccetera, eccetera, in Facebook, che poi alla fine non portano a niente, perché tante volte vedi persone che commentano, poi quando le incontri di persona non hanno un'idea che sia una. Hanno poche per idee cui, confuse. Poche idee confuse. No, ma non hanno neanche quelle. ma infatti. Sì, quindi dico, alla fine sarebbe, cioè è molto bello uscire a bere un'acqua minerale con un amico che ha dei problemi. Certo. Perché magari lo aiuti a risolverli, o risolvi anche capendo i suoi, riesci a risolvere anche i tuoi. Assolutamente sì. Ma anche perché la canzone, lui ha centrato, dice proprio che nessuno ti ama quando stai cadendo, ed è vero. Quando sei in caduta, fatalità, spariscono tutti. Esattamente. No? Certo. Tra altre cose, oggi si festeggia anche il, non so se la nascita o la morte, di chi ha inventato il paracadute. sì. Tu dici che i paracadutisti non li ama nessuno. No, ma loro non fanno caduta libera come descritto nella canzone, si salvano prima. Musicalmente abbiamo sentito, secondo me, abbiamo detto, abbiamo fatto una versione acustica, caro Flavio, tu hai sentito anche te, chiaramente una versione acustica molto sporca, molto rollistoniana per me, di questo pezzo, è decisamente rock, ma se acustica ma per modo di dire. Calzavara numero uno. No, non sono numero uno. Simone giocava con la chitarra in forma molto percussiva, certo. Assolutamente Simone. Quindi sei molto sporco, c'era del blues. Ho letto 16 volte la biografia di Keith Richards. Appunto, hai fatto bene. E proprio c'era un po' di blues, chiaramente. Rock blues, ma è bello, è positivo. Sì, certo. Anche perché sappiamo che all'interno di questo Venice to Venice ci sono molti temi musicali ben sviluppati. Quindi si parte sia dal rock, come definiva sporco il buon Maurizio, a quello che è il rock elettronico, a quella che è la melodia folk, le ballate classiche americane, quindi si parte, è un viaggio. Forse si parte un po' dal grigio nebbia di Venezia per fare tappa agli Stati Uniti d'America, in particolar modo la costa ovest, l'altra Venezia, l'altra Venezia, dove c'è Venice Beach, esatto. come tu descrivi poi anche in una delle canzoni, mi sembra ci sia anche il Big Sur, sì, sì, piuttosto infatti. Che Monterrey, quella quindi... è una canzone che ho scritto, sì. È nata proprio in quei luoghi là, ma quindi anche sai musicalmente c'era l'esigenza di, come dire, di ritrarre sia le atmosfere della nostra Europa, che sicuramente è più nebbiosa, più decadente, e le notti assolate della California, ecco perché musicalmente ci sono vari umori, insomma. Vari umori, quindi cerchiamo di ascoltarne il più possibile. È un disco formato da 14 tracce e poi capiremo ancora molte altre cose legate a questo disco. Ancora uno spazio musicale per un altro pezzo, sempre tratto dal disco, quindi adesso ci ascoltiamo proprio Rain from the Sun, eccola qua. The night is like a sunrise, but you don't want to fade away. No more running away. It's strange how you feel there's something more. Fairies are sleeping outside. It's raining from the sun. Rain from the sun. Blue Time Live. Blue Time. Live. Per gli amici ascoltatori che si fossero messi in contatto solo in questo momento con Blu Radio Veneto, ricordiamo che stiamo svolgendo la trasmissione Blue Time Live fino alle 22:30 insieme a Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Insieme a noi ci sono gli Holidays Futurism che sono venuti a presentarci il loro nuovo progetto, il loro nuovo lavoro che si intitola Venice to Venice. Abbiamo ascoltato un'altra traccia da questo Venice to Venice con Rain from the Sun. Allora sì. Claudio, questa pioggia che pioggia dal sole. Dal sole. Beh guarda, questa canzone è una canzone a cui sono molto affezionato, sia musicalmente, ne parlavamo prima con Maurizio, perché comunque, come avrei sentito, ci sono delle suggestioni bowiane dentro. Sì, ma più che suggestioni, sì, Claudio, sì, c'è l'atmosfera. Certo. Poi, sì, poi con Simone l'avete tutto, certo, masticata, certo, l'atmosfera, certo, l'avete fatta vostra. Più che Bowie, c'è la suggestione. La suggestione, esattamente. Quello è l'importante, infatti, che tra l'altro insomma, è risaputo che io sono un grande estimatore. Ma in particolare, sai, la pioggia dal sole è un momento magico, no? Epifanico quasi, è come una rivelazione di qualcosa di cui ti rendi conto all'improvviso. E qui mi permetto di essere un attimo, come dire, romantico, nel senso che questa canzone l'ho scritta dopo che sono diventato padre. Mm. E quindi è una canzone che parla di questo, della scoperta di nuove responsabilità, di un nuovo mondo, una nuova vita, e al tempo stesso del prendere coscienza di questo. Quindi la consapevolezza. La consapevolezza. Quindi sì, questa pioggia dal sole è un momento di questa scoperta, insomma. Quindi proprio dedicato a tuo figlio. A mia figlia. A mia, tua figlia, non sì, è dedicata, sì, è, diciamo che è ha fatto scaturire questa sensazione di una nuova fase della vita. Salutiamo chi? Matilde. Matilde, ciao Matilde. Bene, allora, questa Holidays Futurism, come diceva Claudio prima, è proprio un VVAA, non un Various Artist, ma proprio un viaggio, vacanza, avventura dell'anima, no, in questo caso. E sì, Simone diceva, sì, una cosa divertente che vale la pena... No, prima dicevo, no, sì, quanto siamo disgraziati, diciamo così. Sì. Perché, cioè, noi cominciamo discorsi seri, facciamo filosofeggiamo dalla mattina, sì, alla sera, e poi ci scopriamo che non facciamo, cioè, il viaggio di cui parlava Claudio, il viaggio del corpo, ma anche il viaggio dell'anima, in realtà non è un viaggio, è una vacanza. Noi facciamo perfino le vacanze dell'anima. Sì, cioè, sì. Ecco, quindi siamo a dei livelli ormai, non c'è più niente da fare. Sì, siete dei tour operator specializzati, esatto, in questo. Futuristi, assolutamente. Esatto. E poi, entrando in possesso del disco, non solo, avendo anche la possibilità di leggere poi anche i testi, sì, sia in inglese che poi con la traduzione italiana. Certo. Ecco, ci vorrei spiegare un attimino, Claudio, com'è il packaging di questo, no, di questo, allora, CD. Nel, sì, disco sono solo in inglese, però c'è un bellissimo sito internet dove si possono trovare tutte le traduzioni, nella speranza che qualcuno voglia dedicare quei 3 minuti per capire, sì, oppure magari sa bene l'inglese. Comunque tu, allora, il sito inganna, perché comincia con i 3 minuti, ma ci stai mezz'ora dentro, nel senso, perché è un sito dove naturalmente si può, perché ci sono tante cose, ci sono dentro, tante cose dentro, è una vacanza anche il sito, assolutamente. Beh, sì, perché tu sai che Holidays Futurism è nato come progetto musicale, ma si è, sì, arricchito di un progetto multimediale e visuale con l'aiuto di altri artisti. In particolare adesso stiamo collaborando con Marzia Dal Gesso, che saluto, una fotografa che ha scattato tutte le immagini che corredano sia il CD che il sito, e si presenta con noi dal vivo come elemento, diciamo, in più a creare delle suggestioni visive e luminose. Già che ci siamo, allora, scusate, vai. Parliamo anche di quella che è la presentazione ufficiale che avverrà proprio per audio e video all'interno della Libreria Feltrinelli a Mestre. Sì, allora, in due momenti. Sì. Libreria Feltrinelli sarà più una presentazione del CD con una versione unplugged di qualche pezzo, un po' come le stiamo suonando qui questa sera. Sì. Per lo spettacolo, lo show vero e proprio, audio e video, invece la sera dopo all'Hotel Bologna di Mestre, all'interno di questo spazio musicale che si chiama Musica Continua Club. Lì ci sarà un party, una festa vera e propria per chi vuole venire alle ore 20, poi alle ore 22 c'è il concerto. A proposito di questo, Claudio, tu parlavi di audio e video, è una cosa che si rifà leggermente agli anni 60. Negli anni 60 c'era qualcosa di quel genere, c'era l'unione di audio e video. Parliamo di Velvet Underground, di Andy Warhol, che è stato il primo in assoluto. Perde un colpo, Maurizio. E quindi c'è un ritorno a queste cose. Chiaramente riveduto e corretto, ma c'è un ritorno a questo. Sì, sì, sì, assolutamente. Comunque, quando hai nominato Warhol e Velvet, sicuramente l'idea era un po' quella, sai, loro che si facevano proiettare addosso. Esattamente, film. Era la prima volta, si parla del 1967, certo, 66, quindi molti moltissimi anni fa. Anni fa. Sì, sì. Noi cominciavamo appena camminare ad ascoltare qualcosa dello Zecchino d'Oro, forse, no? Sì, quando... sì, qualcosina, sì, qualcosina. Per fortuna. No, non c'ero io. No, tu non c'eri. Tu non c'eri. Finissimo. Io o se c'ero io dormivo. C'ero appena, però, non esageriamo. Vabbè. Allora, abbiamo gli Holidays Futurism, però come avete capito non parliamo solo di futurismo o di futuro, parliamo molto anche di passato, da quelle che sono state le esperienze, da dove, certo, si tirano fuori queste nuove emozioni musicali. Allora, Simone ha già in braccio ancora la chitarra? La chitarra, sì. Non l'ha mai lasciata, diciamo? No. Eccola qua, è sempre gelosissimo. Acustica, della non elettrica, acustica. Quindi, vero, eccola qua, la sentiamo. E allora c'è il tempo per ascoltare un altro pezzo. Sì, Game of Chess, che è un pezzo che anche nel disco si presenta in una veste acustica, e quindi a proposito di quella California, di quel mondo diverso dall'Europa di cui parlavamo, questo è un pezzo che la rappresenta. Eccoli qua, Blu Radio Veneto, Holidays Futurism. Do I love you? Do I need you? Or you're just another lady from the past? Do you love me and really need me? Or is it just another game of chess? In every alley there's a car, on every corner there's a bar. Why not love is easy, cheap and fast? And all the poets sing the rhymes, all the sirens call their names, while boys are dancing barefoot on the sand. Do I love you? Do I need you? Are you just posing for another smile? Do you want me? Do you really want me? Or is it just another game of chess? Life lays down their kings of pains as you walk inside the rains. No more slogans, no more lies to die for. So you drink your blues away on every weekend of your life. You get lost, time seems to eat you up. Do they love you? Really need you? Or you're just another rainbow of the past? Do they love you? Do they really need you? Or do we start another game of chess? Never close your eyes to sleep as you feel in love tonight. Then just about the break of day, you can choose to drive away. Do I love you? Do I need you? Are you just another lady from the past? Do you love me? I really need me? Or is it just another game of chess? Another game of chess. Another game of chess. Another game of chess. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Allora, questa Game of Chess, Blu Radio Veneto con gli Holidays Futurism in versione acustica. Per ascoltarla in versione da disco basta essere un po' pazienti ed aspettare l'uscita imminente del disco tra qualche giorno, vero, sì, Claudio? Sì, sì, la prima assoluta da Feltrinelli, appunto, visto che il disco è distribuito nei Feltrinelli Megastore e un po' dappertutto, perché la distribuzione del disco è curata da Goodfellas, questa etichetta fiorentina, sì, che ci distribuisce anche in tutto il mondo, essendo un disco in inglese, sì. Abbiamo mirato di più al mercato internazionale, che è una cosa che era un po' d'obbligo con un disco di questo tipo. Certo, allora partita a scacchi, questa Game sì. of Chess, questi posti che sembrano tutti uguali ma sono assolutamente diversi, soprattutto quando si guardano con gli occhi di un innamorato in questo caso. Sì, questa è una canzone che comunque parla di relazioni amorose, anche usa e getta oppure di incontri. E parla di partite a scacchi, del fatto che comunque quando nascono delle relazioni, dei nuovi rapporti, il protagonista della canzone si chiede andiamo avanti, siamo adulti o stiamo facendo la solita partita a scacchi, i soliti giochetti, ecco un po' questo. Nel frattempo si descrivono delle situazioni di vita abbastanza divertenti, quindi di vita sociale, di bar affollati, di persone che si conoscono, che possono scegliere se passare una notte sola insieme oppure un po' di più. Anche musicalmente è un pezzo divertente, molto solare, molto californiano, anche Simone ha buttato, ha proprio spinto verso la California. Di vedute corretta, sempre certo, di vedute certo. corretta. Beh, io c'ero in viaggio e lui l'ha interpretata molto bene. Sì. E proprio c'è il colore, si sente il colore come fosse il mare davanti. È una notte di sole, come diceva il titolo. Quindi c'è il colore californiano, tra virgolette. E poi è anche una canzone che facilmente si può prestare appunto a un habitat proprio da spiaggia. Quindi sì, sì. Tu porta la chitarra, le birre e appunto il cajon. Birre sempre Virginio. Sempre Virginio. Che sì, porta le birre. Che non dice niente, ma lui porta delle lui birre. Lui porta, ecco. Sì. Non si sa dove le ha messe perché vedo solo acqua qui, però sì, sì, in questa serata solo acqua. L'idea, Claudio, l'idea musicalmente c'era già, doveva essere così? Sì, quando sì, l'hai pensata? No, ma addirittura posso, dimmi, vai. Nel disco, se non sbaglio, l'hai suonata tu la chitarra. Sì. Ecco, hai suonata quindi, te. Cioè, no, no, beh, io l'ho scritta così sto pezzo, con la chitarra acustica e la voce, anzi, come al solito, chitarra e voce gliel'ho data, ma cosa facciamo? Va bene. Chitarra e voce. Lui mi ha detto, va bene così, cosa vuoi fare? Beh, va bene. C'è la melodia è fondamentale, è il punto focale. E quindi focale. Va bene, poi è arrivato Virginio col suo cajon, le sì, sue... Che è un po' colorato con le percussioni il pezzo. Con le sue birre. Ma anche, sì, anche nel disco c'è questa... No, lo stiamo facendo passare per un ubriaco. Sì, no, poverino. No, volevo chiedere, anche nel disco c'è il sottofondo di cajon oppure c'è una gran cassa in questo caso? Questo dovresti dirlo tu almeno una parola. Sì. No, c'è una gran cassa. Sì, in questo pezzo c'è una gran cassa e dei cymbals, dei tamburini. Sì, sì, sì, sì, sì. Però nel disco ci sono anche dei momenti registrati con il cajon, con delle conchiglie, abbiamo sperimentato. Sì, perché lui ha delle percussioni molto strane che si crea da solo e quindi Virginio è molto fantasioso in questo. Molto bene, poi ce le presenterà magari, sì, non so, la prossima volta viene anche con le percussioni quelle speciali. Ma sì, fa una serata solo conchiglie. Bene, i suoni dal mare, si può dire così. Benissimo, allora ci siamo persi in questa chiacchierata, ricordiamo ancora che abbiamo qui in studio con noi Claudio Valente, Simone Chirilò e Virginio Bellingardo, insieme formano gli Holidays Futurism, e poi il disco ha anche delle collaborazioni, ho visto degli altri nomi oltre ai vostri comparire. Allora ci sono in un paio di pezzi ci sono dei sax che sono suonati da Tiziano Valente, mio fratello che saluto del resto, e basta, se non mi sbaglio, come musicisti, sì. Infatti stavo pensando chi c'era di collaborazione. Ecco, quindi era solo Tiziano. Era solo Tiziano, ciao Tiziano. Sei l'unico collaboratore. Ho detto, com'è possibile? Mi sono dimenticato. Allora musicalmente, no. Dunque, Simone che cosa ha suonato? Chitarra e basso anche. Tu hai suonato le tastiere. Le tastiere e qualche parte di chitarra. Virginio le percussioni. Percussione e batteria. Batteria. E mio tuo fratello il sax. I fiati, sì, il sax. Sì, ecco perché eravate in tanti. No, c'erano tanti strumenti. C'erano tanti strumenti, ma... Ma sai, c'è un periodo di crisi, l'economia. Sì. No, ma perché io devo spiegare a un musicista che mi costa anche cosa deve suonare? Lo suono io, faccio prima. Certo, benissimo. Allora, hai capito. Simone, in questo caso, ha parlato anche da produttore artistico. Sì, non fa girare l'economia, ma insomma, va bene. Vabbè, l'età mi sa che non ti promuove la stabilità. Okay. Va. Allora, Holidays Futurism, Venice to Venice, Foggy Days, Sunny Nights, questo è il sottotitolo. Allora direi ascoltiamo un altro pezzo dal vostro nuovo lavoro, e quindi diamo spazio anche a Love Behind the Doors, eccolo qua. Live Blue Time. Blue Time Live. Thank you. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Holidays Futurism, Venice to Venice, ci siamo ascoltati un altro bel pezzo, in questo caso Love Behind the Doors. Anche qui si parla d'amore, Claudio. Sì, l'amore dietro la porta, che quindi diciamo che volevo giocare un po' con le parole, fare qualcosa di suggestivo e quindi in tema anche un po' col futuristico, nel senso di usare dei simboli. Infatti può essere interpretato in molte maniere, sia come in maniera, cioè, come se si parlasse di amori clandestini, o comunque amori che vengono tenuti preziosamente riparati dietro una porta perché non vengono rovinati, che diciamo, poi nella, dalla quotidianità, ma anche si parla anche di amore superiore, quindi certo, nel tuo testo, perlomeno nella parte tradotta in italiano, c'è anche il col tuo amore dietro la porta, segreta, perfetta beatitudine, appunto, quindi una grande forza racchiusa in queste parole. Ti dicevo che sono stato un po' volutamente ambiguo, nel senso sì, amore terreno, ma potrebbe anche essere qualcosa di più. Ogni tanto mi piace anche... Come la Beatrice di Dante. Non so. Esatto. Claudio diceva una cosa molto bella, Flavio, mentre il pezzo andava. Sì. Diceva che dal New Wave emerge, ma New Wave in senso più ampio, più lato, più allargato. Poi Claudio e Simone qua poi hanno allungato, hanno ristretto certe tematiche. Punto di riferimento è la New Wave, siamo d'accordo. Su questo pezzo senz'altro lo senti nell'uso del synth, dicevamo nell'uso del sax, che in qualche maniera... E tuo fratello interpreta bene l'uso del sax, cioè lo... dà una certa colorazione particolare. Ma sai che la cosa strana è che mio fratello in quegli anni là era intanto era più piccolino, e proprio il suo modo di suonare, che fatalità, è perfettamente, aderisce perfettamente a questo genere. Mi confermi, no? Ma sì, perché c'aveva un fratello più grande che è Claudio, che dalla mattina alla sera ascoltava Bowie e quindi sentiva continuamente questo modo di suonare il sax, no? Sbagliato, dice Simone. Sbagliato, inevitabilmente ha imparato così, insomma. Sì. Però di necessità, cioè è stata una è sì, stato no. un vantaggio, prima insomma. Citavamo anche i Tuxedo Moon. Sì, i Tuxedo Moon, proprio in relazione a questo suono di sax. Sì, infatti. Sì. Ciao Tiziano. Ciao. Non badare al produttore intanto. Non badare. Benissimo. Allora, Holidays Futurism, abbiamo ricordato quelli che sono i prossimi impegni e anche l'uscita prossimissima dell'album. Ricordiamo ancora una volta il vostro sito internet, che è www.holidaysfuturism.com, per conoscere qualcosa di più del di questo progetto Holidays, certo. Futurism del gruppo, anche perché è proprio spiegato ed elencato molto bene tutto. E poi ci sono, come si diceva anche prima, queste fotografie abbinate ai testi e quindi abbinate alle musicalità che fanno parte appunto del progetto. Tra l'altro dal vivo vengono fatte delle altre fotografie con una tecnica che si chiama light painting. Non la so definire bene, è forse più bravo Simone, ma consiste nel, com'è? Non so, io ho dei fari piantati in faccia, sì, quindi non ho capito nel bene. Proiettare delle luci ai musicisti che suonano mentre vengono scattate delle foto in sequenza per creare delle nuove suggestioni, quindi è una cosa un po' sperimentale, sì, interessante anche, sì, perché sì, assolutamente molto belle. Assolutamente molto belle sono anche le foto da, appunto, da, sì, vedere. Lo ricordiamo ancora, sì, di Marzia, sì, dal gesso, che sta collaborando con noi. Ciao, ci sono molte foto legate a Venezia, no? Quindi, sì, sì. Sai, il disco era Venice to Venice, parlava di vacanze, e allora abbiamo detto ma proviamo a far ritrarre Venezia in una maniera diversa e particolare, e credo che Marzia ci sia riuscita molto bene. Sì. Marzia sapeva già, cioè aveva già sentito l'album prima, oppure no? L'ha ascoltato, sì. Quindi si è fatto un punto di riferimento e ha cominciato a scattare, a fare questo progetto. Su, sì, questo, sì, si su è fatta ispirare da questo. Esattamente, questo. Perfetto. Anche perché il progetto di Holidays Futurism non è rock and roll, è art and roll. Art perlomeno and roll, così lo, sì, descrivete è, nel è sito. È divertente dire questa cosa perché c'è il rock e il rock and roll, però come, per come lo stiamo proponendo è molto dato essere suonato anche nelle gallerie d'arte, perché tu sai che il nostro primo esordio dal vivo è stato nella Galleria d'Arte Mestre Contemporanea di Vito Campanelli, anzi che salutiamo e ringraziamo, ciao Vito, in cui siamo riusciti a creare un evento veramente suggestivo all'interno di una cornice meravigliosa. Quindi, sai, suonare il rock nelle gallerie d'arte è veramente bello. È certamente una cosa nuova anche, tra parentesi. Si faceva, però non si è fatto così spesso in Italia. All'estero si fa spesso e volentieri, però in Italia c'è qualche chiusura, vero Simone? Certo, questa cosa. Ma noi siamo in vacanza mentale. Voi siete in vacanza. Quindi... vacanza mentale, siamo all'estero, quindi... siamo in vacanza, sì, sì, perché so che all'estero anche ai supermercati, nei grandi centri commerciali c'è sempre lo spazio dedicato a nuovi musicisti, sia, certo, folk, diciamo arrivati solo con la sua, con la chitarra e il tamburello, piuttosto che appunto eventi elettronici come potrebbe essere anche questo. Certo, anche in ambienti, diciamo, sì, praticamente insospettabili per quel tipo di, certo, proposta. Certo. E invece qua in Italia zero. Boh, non oppure lo so, oppure sì, si prova. Lo fa, oppure proprio zero, poco, però diciamo poco, ecco, ci vuole, è lasciato un po'. L'ex, l'ex Blu Vertigo Andy ha fatto una cosa del genere, sì, a Milano, sì, vero, vero, un po' di tempo fa. Sì, sì. Andy è senz'altro in questo è stato molto avanti, anche perché lui pittore, stesso è un artista, sì, un artista, pittore, costruttore un po' di cose, certo, in particolare, e ha fatto questo progetto, portato avanti anche abbinato, sì, esatto. Ma da noi nei centri commerciali arrivano i ragazzi di Amici di Maria De Filippi, sì, sì, sì, sì, sì. Arrivano anche quelli, assolutamente. Moreno soprattutto, ecco, ma, allora Maurizio, io non ti capisco, a volte guardi troppa televisione, sì, mi, esatto, mi raccomando. No, lui fa tutto, punto, cioè, sì, sì, sì, sì, sì, sì, dai Velvet Underground a Moreno, esatto. Beh, musica anche quella. Andiamo avanti. Benissimo, allora sì, andiamo avanti con un altro pezzo dal vivo con i protagonisti sempre Holidays Futurism, questa volta con un titolo davvero davvero lungo. Vuoi dirlo tu, Claudio? La Bert Muller, sì. Soul Singers Never Sleep Alone, che, sì, vuol dire che i cantanti solo, oppure chi canta con l'anima, non dorme mai da solo. Cioè, adesso capiamo. Lay your head, watching the sky, feel like hell or heaven are no limits to your mind. Find a reason to keep going wild. A hole in your soul, in the dead of night, you would need a prayer, but you've never been so wise. Will you sing about your lost life? You were scared and so hungry for a sign. So you went back to the sea. And the waves seemed to be waiting for you. Then you started to believe. So, oh, singers, never sleep alone. Shade. Wouldn't it be great if some nice moment could last? You keep on falling, falling lonely. Now forget all the bad things I said. Forgive all my usual mistakes. When your dress goes down slowly, I feel alive again. Assolutamente fantastica, fortuna che la stiamo registrando, perché così potremo anche riascoltarla. A proposito, all'interno dei nostri archivi sonori troverete sia questa registrazione e anche alcune foto che scattiamo proprio per la serata, senza competizione con la vostra fotografa ufficiale. Beh, assolutamente. Esattamente. No, assolutamente. Allora, questa Soul Singers Never Sleep Alone, questi cantanti dell'anima che non possono dormire da soli, è un po' un'analisi interiore di un artista, di un musicista nei confronti di tutto il mondo che lo circonda. Sì, Claudio. Senz'altro c'è questo tipo di allusione a un behavior, un way of life, un modo di vivere che di solito è quello che si associa alla vita dell'artista. Anche qui devo dire che quando parlo di anima e di cantanti c'è comunque un riferimento. Sono stato un po' mistico, c'è anche qualche riferimento mistico, infatti c'è qualche frase che lo rivela da qualche parte. A un certo punto dice: un buco nella tua anima, nel cuore della notte, avresti bisogno di una preghiera, ma sei mai stato così saggio? Cioè, quindi c'è anche la volontà di andare anche al di là del terreno, insomma. E poi c'è una cosa che Claudio giustamente ha detto. E però c'è un omaggio non proprio velato, profondo, sentito a Elvis. Eh beh, sì, Elvis è il da Elvis si è iniziato tutto, tutto è partito da Elvis. Elvis è il singer, non è il soul singer, perché ce ne sono di colore famosissimi che noi amiamo, certo, e bravissimi, quindi neanche, però è nell'immaginario del cantante bianco. Esattamente. Elvis è il cantante, capisci, almeno per chi ama un certo tipo di rock. E questa è una ballata che pure su disco viene così un po' sofferta, un po' in solitaria. Poi diciamo. Simone l'ha un po' macellata, vuoi dire tu qualcosa? Ma no, è suonata così in maniera toccante. Il macellaio, no, il produttore. Vediamo dietro produzione cosa c'era, Simone. No, stavo pensando una cosa. Svelo i segreti della produzione di questo disco. Non posso. C'è qualche grande fratello della produzione. Qualche glitch, un po' di noise in sottofondo. Un po' di cose. No, beh, vabbè, ma questo non so se interessa. Abbiamo usato parecchio nelle parti di chitarra acustica, abbiamo usato un delay reverse, cioè praticamente mentre suoni questo effetto prende la parte che tu stai suonando e te la fa sentire al contrario. Ah, ovviamente non è una traccia girata al contrario, ma sono dei momenti che risuonano rovesci in qualche modo. No, ma stavo pensando un'altra cosa, perché i cantanti soul non dormono mai da soli. E invece André Segovia, chitarrista, insomma, diceva: non sono mai solo se ho con me la mia chitarra. Cioè, a voi, insomma, pensateci. Decidete voi. Da domani mi metto a cantare. Ecco. Benissimo, allora Holidays Futurism con noi fino alle 22:30 per parlare del loro nuovo lavoro, Venice to Venice, Foggy Days and Sunny Nights. Ma quanto c'è della Venezia vera, della Venezia tua, Claudio, qui dentro? Beh, ce n'è abbastanza, perché ci sono tutte le prime, diciamo, 4-5 brani del disco. C'è anche un viaggio proprio. Ci sono anche due brani strumentali, tra l'altro, di cui non abbiamo parlato. Sì, ai confini dell'ambient, che come atmosfera aprono e chiudono il disco, andate e ritorno a Venezia. Infatti i due pezzi ambient sono tutti e due molto veneziani, sono molto mitteleuropei, molto diciamo non cupi, grigi, come possa essere Venezia in certe giornate di nebbia, ecco. Perché la scelta dell'ambient, tra virgolette, sempre tra virgolette, perché? Ma sai, siccome è un po' concept il disco, volevamo dargli un intro e un outro, e quindi una semplice traccia strumentale evviva era il modo migliore per commentare. Poi sai, Venezia è una città di suggestioni anche solo musicali, le volte le parole non servono. Poi l'andata e ritorno, perché la prima mi guardate come se stessi per dire una cosa divertente, ma non è vero. No, perché stai sorridendo. Una cosa tecnica, allora. Sì. L'andata è, abbiamo fatto questo pezzo, questa introduzione strumentale, poi per il ritorno abbiamo usato lo stesso effetto, abbiamo girato completamente la traccia al contrario e poi abbiamo suonato delle cose sopra, perché inevitabilmente l'andata e il ritorno abbiamo fatto la stessa strada, certo, e siamo tornati indietro. Il girare sono cose che qualcuno le faceva, si chiamava John Lennon, spesso e volentieri girava, volutamente girava, per dare un senso anche di misterioso, di cupo, di terribile musicalmente. Certo, sì. Voleva dare proprio quel senso là. Certo, beh, a Brianino invece hanno girato per sbaglio una bobina, la storia lì, esatto, cui, esattamente. Insomma, noi l'abbiamo fatto prima che ce la girasse Calzavara, il radio. L'abbiamo fatto noi. Comunque anche qui c'è l'attitudine futurist, sta anche in questo utilizzo di effetti, di cose particolari all'interno di brani che alle volte hanno delle costruzioni molto tradizionali. Di riferimento, questo è importante. Questo disco, secondo me, Flavio forse anche sarà d'accordo. Sì. Ci sono i punti di riferimento, ma sono talmente vaghi, non effettivi. E quella è la bellezza di un disco aperto, possiamo dire questo? Sì, assolutamente. Era quella l'idea, infatti. Benissimo. Quindi questo intro è anche un po', diciamo, un po' forte, perché l'ascoltatore sente questa musica in sottofondo, dice: aspetta che me l'ascolto in cuffia, no? Sì. E quindi si ascolta l'intro in cuffia e poi improvvisamente viene assalito, in un certo senso, dalla traccia numero 2, dal riff di Radio Silence che gli massacra massacra le orecchie, quindi come dire, non ti rilassare troppo. Sì. abbiamo anche dei saluti che arrivano da Luca, che ci sta ascoltando. Bene. Luca Penna, ecco qua. Ciao Luca Penna. Ciao Luca, grazie mille. Ciao Luca. E quindi è su Facebook, Alberto? Approfittiamo anche per salutare Alberto Prisco. Che, ciao Alberto, ben trovato. Che vede queste belle seratine. Vuoi dire qualcosa, Alberto? Volevi dire qualcosa? Ciao a tutti, volevo solamente ricordare che Luca Pena un paio d'anni fa è venuto qui in radio a presentare il suo disco. Sì, perfetto, è un nostro amico, cantautore. Perché vi svelo un segreto, sì. Sto producendo il nuovo disco di Luca Pena. È giusto dirlo. E allora, ricordiamo, a proposito, abbiamo sentito adesso Alberto Prisco, dalle 22:30 circa in poi fino alla mezzanotte sarà con noi per Rock Wave, l'onda del rock, e con la particolarità della sua classifica speciale. Ma torniamo con Holidays Futurism, Venice to Venice, un altro pezzo dal vostro nuovo lavoro, questa volta è Fall for Somebody, eccolo qua. Somebody, well, I'll fall for someone like you. You gotta fall for someone, and I'm falling just for you. Love came shining, rolling round the bend. You were smiling like a loaded gun. You've been waiting for so long for a fool like me. It's a new addiction, I will never break at all. We gotta love somebody, we need to. We gotta love someone. You gotta fall for somebody, well I'll fall for someone like you. Gotta fall for someone, I'm now falling right for you. She's terrific, like a sky of glass. So horrific, like the middle class. Oh, my lady of sirens, kiss and say goodbye. Take a new direction, please don't tell me where. We gotta love somebody, we need to. We cannot love anyone. You gotta fall for somebody, well I'll fall for someone like you. You gotta fall for someone, and I am falling for you. You gotta fall for somebody, well I'm falling just for you. You gotta fall for someone, and I am falling for you. Somebody, you got to, you cannot love anyone. You gotta fall for somebody, well I'll fall for someone like you. You gotta fall for someone, and I'm falling right for you. You gotta fall for, fall for, fall for, fall for, fall for, fall for, fall for. Somebody, fall for somebody. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Live. Blue Time. Live. Holidays Futurism e Blu Radio Veneto per questo loro lavoro, si intitola Venice to Venice. Questo è Fall for Somebody, ancora una canzone d'amore, come avrete capito, ascoltatori carissimi. Sì, un po' ironica però. Sì, questa, si un parla un po' di ironia. Un po' aspra, un po' aspra. Allora adesso ce la spieghi. In questa situazione, diciamo, di crossover, dove non c'è un solo genere musicale, si parla prima di elettronica, poi di rock duro, questa sì, è un'atmosfera molto pop rock di largo respiro, diciamo. Questa è proprio caso molto frizzante, molto spiaggistica, nel senso che sì, questa ci sta molto bene nel mondo californiano di cui sì, parlavamo prima, e dice innamorarsi di qualcuno è il titolo, no? E dice appunto devi pure innamorarti di qualcuno, quindi io mi sono innamorato di te, quindi è molto ironica la cosa, un po' alla Luigi Tenco, esatto, cioè, perché non avevo niente da fare, esatto, il concetto è quello, e gioca un po' con le parole. Qui ho voluto un po' divertirmi, quindi un'attitudine rock and roll anche nel linguaggio ironico, usando sì, delle rime che a me divertono, perché a un certo punto dice sei tremenda come un cielo di vetro, you're terrific like a sky of glass, e sei soporifica come la classe media, soporific like the middle class. A me piacciono questi giochi di parole che hanno poco senso, ma forse ma hanno senso, perché qua si è divertito anche Simone, si è divertito con le due chitarre. Adesso mi dici questi effetti delle due chitarre, sì, perché non volevi ne una, no, hai tenute tutte e sì, due, dai. No, quando c'era la solo di chitarra abbiamo fatto una solo, poi ho detto Claudio, beh, facciamo un altro, mi sembrava impossibile che andasse bene il primo, no? Abbiamo fatto il secondo e abbiamo detto bello secondo, no? Allora abbiamo detto vabbè, teniamoli tutti e due, uno a sinistra, uno a destra, perfetto, fine. Quindi belli. Belli. belli tutti e due, i due. E il problema è dal vivo. Come si fa dal vivo? Sì, il problema è quello. E quindi dal vivo come viene? Allora, faccio uno alla volta. Ne fa uno alla volta. Prima strofa ne fa uno, la seconda strofa fa l'altro. Certo. Così. Poi io non suono la chitarra dal vivo perché mi concentro di più sul cantato e sulle tastiere. Certo. Volevo capire, quindi è un'atmosfera molto elettronica anche quella dal vivo, quella che presenterete nelle prossime serate, oppure sarà... Diciamo che è abbastanza simile al disco, ci sono dei brani, quelli appunto che vengono più europei, che hanno l'uso di tastiere di sintetizzatori, quindi hanno questa matrice più wave, e invece c'è il momento proprio rock soleggiato dove ci sono atmosfere come queste, i brani acustici che hai sentito prima. Sì, siamo molto fedeli dal vivo, diciamo, al quindi disco. Quindi varia, l'atmosfera è varia anche per... E Virginio come si comporta al vivo? Cosa usa? Che strumenti usa? Percussioni un po' più ampie, più allargate o ridotte? Rispondo io, se tu il batterista No, allora rispondo io che non ha il microfono, è vicino a me e, non vuole avere il microfono, esatto. Vuole. No, abbiamo per motivi pratici e tecnici abbiamo deciso di usare una batteria con dei pad, però ormai insomma la tecnologia, adesso i puristi della batteria diranno oh, orrore, no? Però in realtà fa parte un po' anche del mondo del new wave, certo, degli anni 80 eccetera, per cui niente, insomma Virginio è dietro una batteria de plastica, insomma. De plastica. Ecco, però è un po' sofferente il batterista dietro la batteria di plastica, oppure si ritrova... Aspetta, passo il microfono. Sì. Ecco. Dai, racconta Virginio, che è come suonare... Almeno questa ce la vuoi dire, perché niente, batterista di solito che passa dalla pelle, diciamo, al battito, come diceva Simone, plastico, ne soffre un po'. Sì, si soffre un po', ma mi devo adeguare a questi due Gianniferi. Ok, porto via il microfono. Benissimo. Non eravamo d'accordo così. In realtà, diciamo che anche nella coreografia di Holidays Futurism l'utilizzo di una batteria elettronica, che però suona come una batteria vera, di una tastiera, di alcune sequenze, perché comunque Simone, dimentica di dirlo, ma ha anche il compito molto importante di comandare delle sequenze mirate a rendere lo spettacolo più ricco, creano un po' tutta questa atmosfera particolare. Volevamo essere sì un gruppo rock, ma un gruppo rock futurista. La selvaggina la porta solo la chitarra, insomma, la selvaggeria, la selvaggeria, selvaggiume. Benissimo. Allora, ricordiamo ancora una volta, Claudio, quali sono i due appuntamenti? Sì, assolutamente. Sì. Allora, venerdì alle 18 da Feltrinelli a Mestre, nel centro commerciale delle Barche, presentiamo il CD in una versione tipo questa che state ascoltando, quindi unplugged. E lì non si beve. Si può bere, quindi vi aspettiamo appunto per avere, diciamo, subito di prima mano la copia appena arrivata dalla stampa, così per averla anche autografata, certo. La stessa cosa sabato, però in maniera più prolungata e sicuramente più completa, facciamo intanto una festa per festeggiare l'uscita, quindi c'è un party all'Hotel Bologna di Mestre di fronte alla stazione ferroviaria alle 20, si arriva al party e dopodiché, dopo questo release party per gli ospiti, suoniamo tutto il disco semplicemente e bene. Ci sarà anche la possibilità di acquistare il disco o vediamo. Allora vediamo magari come riconoscere, lo regaliamo a qualche simpatico. Ma non vogliamo dirla questa cosa? No. Lo vogliamo dire? Diciamolo. Sì, siccome il party praticamente è su prenotazione. Sì. Allora diciamo? Sì, diciamo. Vabbè, gli Holiday Sweet Release hanno deciso che alle prime 40 persone che prenotano e ci assicurano la loro presenza, regaleremo il CD degli Holiday. Bene. Mamma mia, che generosità. Veramente. Però vogliamo una vera prenotazione. Almeno su Facebook scrivetecelo, insomma, che venite. Nome e cognome. Allora, Claudio, ancora una cosa, visto che abbiamo parlato del CD, parliamo anche di quella che è la copertina, così che va un po' fuori. Vi ritrae tutti e tre, un po' di. Già hanno trifronte in questo caso. Sì. No? Beh, lì è Marzia Lagesso, la fotografa, che ha detto: beh, se devo fare una cosa con qualche relazione col futurismo, devo occuparmi di luce, di movimento. E allora lei ci ha fotografato separatamente per poi. Mi ricordo bene, no? Cioè, ha fotografato separatamente per poi ricomporci in un unico trio in maniera molto sfocata o in movimento. Quindi passato, presente e futuro. Anche questa idea ci piaceva di far capire che questo progetto comunque è un progetto di band. Cioè, è chiaro che ho scritto molto materiale, ma è stato poi arrangiato tutto insieme, quindi ci teniamo a far sentire questo forte spirito di band. Ma tu avevi scritto sempre per le band, poi c'è stato un periodo in cui scrivevi per te stesso, certo. La tua attitudine a scrivere le band non è scomparsa, non è rimasta nel cassetto. Assolutamente, ma guarda, anche quando abbiamo fatto insieme i dischi da solista, appunto, con Simone, ci siamo sempre mossi come una rock and roll band dal vivo, anche se il disco poi aveva i dischi solisti, erano dei sapori più cantautorali, ecco, però dal vivo abbiamo sempre avuto questa attitudine alla band. È l'essenza della tua benissimo musica. Allora sentiamo ancora una volta la band da CD, quindi da questo Venice to Venice con i Foggy Days and Sunny Nights. Questa volta ci ascoltiamo No. Blue Time Live. Every time we go, we smile away for a while. All the children say, stay out tonight with your dreams. Make me feel, you know, our love is strong and is real. We'll be right back. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Abbiamo ascoltato anche questo pezzo degli Holidays Futurism, si intitola No, quindi sapere, capire. Perché, Claudio, l'uomo ha sempre bisogno di capire? Sì, esattamente, questa è una canzone che parla di conoscenza, sì, di sapienza, e in qualche maniera anche qui c'è la voglia di andare a stuzzicare delle altre corde, no? Andare un po' al di là dei temi comuni. Sì. Sempre comunque una canzone d'amore anche questa, diciamo. No, in realtà sì. No, questa è una canzone, ecco, proprio di... Ho sbagliato in pieno. No, parla anche di amore, sì, ma parla proprio di amore per la conoscenza. Per la conoscenza, sì. Cioè, questo bisogno dell'uomo di sapere le solite vecchie domande. Sì. Dove sono, perché ci sono, dove sto andando. E quindi ancora una volta il viaggio, la vacanza, sì, mentale. Addirittura c'è una frase che quando l'ho scritto ho detto... Ma questo sembra quasi, perché a un certo punto dice: tutti i bambini giocano e cantano ancora alle stelle, possa il ragazzo scendere stanotte, che potrebbe essere una cosa religiosa ma anche un alieno, no? Sempre lo Starman di cui si parlava una volta, quindi c'è un po' questa allusione. Oppure anche i bambini che sognano di diventare ragazzi, certo, quindi per capire cosa c'è sotto l'adolescenza, ma lo vivono ancora da bambini, poi quando diventano ragazzi è troppo tardi per tornare indietro, no? Ecco, hai visto che sì, hai trovato un'altra, quindi possibile un'altra interpretazione. Un'altra interpretazione di prosa di quello che sì, è l'involucro della canzone. Ma poi il pezzo stesso è abbastanza, tra virgolette, sperimentale, perché si diceva prima con Maurizio... Un po' ipnotico alla fine. Ipnotico, nasce come una ballata elettropop per poi aprirsi in maniera più space, più cosmica. Più noise. E più noise anche. Alla fine sì, assolutamente così. Infatti. Benissimo, allora siamo quasi giunti al termine della trasmissione. Prima, in principio, presentando Holidays Futurism, abbiamo presentato anche quello che è il nuovo singolo, che è Radio Silence, in versione anche videoclip, sì, è visibile anche all'interno del sito internet o su YouTube, sì, cliccando, sì, sì, Radio Silence Holidays Futurism, ci trovate, insomma. Holidays Futurism. Non, se volete vederlo adesso ve lo fanno vedere, no? Certo, sì, assolutamente, quindi no, beh, direi dopo la trasmissione, mentre ascoltate Alberto Prisco, anzi no, dopo l'ascolto di Alberto Prisco potete naturalmente andare a collegarvi su internet e vedere ancora qualcosa di più di Holidays Futurism, e quindi vedere anche questo bel video e dare una vostra anche interpretazione. Poi scrivetelo, poi presentatevi alla Feltrinelli, esatto, ecco, mi raccomando, e date il vostro commento, diciamo, alla visione di questo video. Allora, si diceva appunto Radio Silence, che è anche il singolo, sì, e che adesso ci farete ascoltare in una versione inedita, unplugged, un po' acustica, insomma, diversa sicuramente dal... Benissimo. Allora, prima di ascoltarla, noi passiamo ai saluti. È stato un vero piacere ritrovarvi, avervi ancora una volta con questo bellissimo nuovo progetto Holidays Futurism. Ricordiamo ancora una volta: Venice to Venice, Foggy Days and Sunny Nights. Bellissimo. Quindi, da Venezia a Venezia, andate e ritorno. Da Venezia a Venezia, andate e ritorno. Un po' come Marco Polo, solo che non siete andati in Cina, ma in California. Siete andati in California. È un po' diverso. Sì. Bene. Allora, salutiamo Claudio Valente. Grazie, Claudio. Ciao, grazie a voi. Simone Chivilò, grazie. Ciao, Simone. Grazie a voi. Virginio Bellingardo, se ce la fai. Ciao a tutti, ecco, grazie. Qua. Bene, si è avvicinato al microfono. Ancora grazie, Claudio, Simone, Virginio. Allora, Blu Time Live può finire qua da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Il solito grande e caloroso ciao, vi lasciamo assieme agli Holidays Futurism. Grazie ancora, ragazzi. Radio silence, and the sky is white. Your only friend, a cactus in the sand. The boy with the gun, to the movie show. a bag around a corner breaks down and cries. And now I know the reason, just the reason why. No one knows whatever, and now I cares no more. The lady on TV, she smiles like a snake. She's got a brand new lover, and there's a tin in her eyes. Realities, vulgarity, mediocrity. I must remind myself always who I am. Every moment, every day now. The children of this darkened age, they cry for someone else's pains in starry rooms of nothing. Radio silence, radio silence, no sound of life. It rained tracks all day, now everything turns gray. The times the world are changing, they don't look any better. Oh baby, give me your hands, I won't let you down. Down, don't sink, sink, sink to this radio silence. I must remind myself always who I am. Every moment, every day now. And I don't know better life. Stand just close to you, every moment, every day now. And I must remind myself always who I am. Every moment, every day now. And I don't know better life. To stand just close to you. Blue Time, Blue Time Live.